L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Le prime 13 pagine sul Corriere della Sera, le prime 11 su Repubblica, La Stampa invece, che è un po' più morigerata, ne ha dedicate soltanto 7, mentre Il Sole 24 Ore, più austero, più rigoroso come quotidiano, soltanto qualche articolo a metà giornale. Vi ho appena dato conto dello spazio che ieri i principali giornali italiani hanno dedicato a quella che è la notizia principe, non c'è dubbio, della settimana, ovvero la clamorosa e naturalmente speriamo tutti mai più ripetibile eliminazione, disfatta azzurra ai mondiali in Sudafrica, arrivata giovedì dopo la rovinosa sconfitta 3-2 contro la Slovacchia. Dunque, se dovessimo procedere secondo una linea gerarchica nel nostro racconto dei fatti più importanti della settimana, da sabato scorso 19 giugno a venerdì, a ieri 25 giugno, dovremmo per forza di cose aprire proprio con la sconfitta della nazionale di Lippi. Ne parleremo brevemente perché insomma se ne è già parlato diffusamente più avanti, però invece io voglio dedicarvi una copertina ben diversa che ci permette di uscire un po' dai confini di casa nostra, il che a mio giudizio non fa mai male a nessuno, perché la notizia secondo me più importante della settimana giunge martedì dalla Gran Bretagna, paese che è tornato nelle mani dei conservatori dopo oltre un decennio a guida laburista. Ebbene, i conservatori, a nemmeno 2 mesi dalla vittoria alle elezioni, hanno presentato la manovra economica più pesante dai tempi della Thatcher, una manovra, pensate, da 40 miliardi di sterline all'anno, fatta di tagli pesantissimi ma anche di aumento delle tasse per rientrare dal deficit di bilancio. Mario De Aglio sulla Stampa di mercoledì ha scritto un articolo molto interessante sul tema, ha detto che a confronto dello schiaffone, lo ha chiamato così inglese, la manovra invece di Tremonti sembra una lieve carezza, ma io qui voglio invece insistere su un altro punto e su questo proporvi un confronto, un paragone con l'Italia, perché lo sapete, in Inghilterra la manovra di solito non viene mai modificata attraverso emendamenti, cioè come entra in Parlamento così poi esce e diventa legge, invece in Italia, anche questo lo sapete benissimo, la storia è ben diversa, perché una volta che viene presentata una manovra si mette in moto quel laborioso, cavilloso, tipicamente italiano gioco di emendamenti, aggiustamenti, correzioni, alcune peraltro lodevoli, altre decisamente meno. E ricordo la formidabile definizione che diede ai tempi della Prima Repubblica, che secondo me qualcuno di questi tempi rimpiange con troppo slancio, definizione che diede Cirino Pomicino, che era il potente presidente della Commissione Bilancio alla Camera, che definì gli emendamenti alla finanziaria i voluvan, cioè delle piccole o grandi elargizioni di denaro e di favori, che sicuramente erano molto golose, molto gustose, che venivano date a questa o quella parte politica. Ebbene, in Inghilterra i conservatori in questi giorni hanno calato la mannaia dei tagli sui sudditi di Sua Maestà, mentre in Italia sono spuntati a migliaia, praticamente nelle stesse ore, gli infiniti emendamenti, compresi anche un paio di condoni. Naturalmente lascio a voi ogni giudizio sui servizi che riascoltiamo. Mercoledì mattina Giorgia Scaturro e martedì mattina Vincenzo Miglietta. It is tough, but it is also fair. Se la Gran Bretagna ha il debito pubblico peggiore di tutta l'Eurozona dopo l'Irlanda, la soluzione è una finanziaria dura ma giusta. George Osborne, il cancelliere dello scacchiere britannico, ha definito così il suo budget d'emergenza presentato ieri a soli 50 giorni dalla formazione della coalizione di governo conservatori liberal-democratici. Per salvare l'economia del regno, Osborne ha introdotto le misure più draconiane dell'ultima generazione, per il 77% tagliando la spesa pubblica, con la scure su 13 miliardi di euro di sussidi del welfare. Per il 23% aumentando invece le tasse, previsto ad esempio l'incremento dell'IVA dal 17,5% al 20%. 2 miliardi di sterline saranno ricavati dalla nuova tassa sulle banche, che la Gran Bretagna introdurrà a gennaio del 2011, seguita anche da Francia e Germania. Almeno per i prossimi 5 anni, niente euro nel Regno Unito. Secondo il cancelliere conservatore, quest'anno l'economia britannica crescerà dell'1,2%, meno del previsto. La disoccupazione avrà un picco dell'8,1%, mentre il deficit strutturale, 179 miliardi di euro nel 2010, scenderà nel 2015. 2.550 emendamenti sono tanti e difficile controllarne prima il contenuto, spiegano i senatori più esperti, ma certo quello che è successo ieri a Palazzo Madama sarà ricordato per diverso tempo. Nel giro di poche ore hanno fatto la loro comparsa, infatti il condono edilizio prima e quello fiscale poi, entrambi a firma del Popolo della Libertà, salvo essere bocciati a stretto giro dal governo. Ma quale condono edilizio, ha chiarito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Buonaiuti. Questa sinistra bugiarda, ha detto il portavoce di Berlusconi, fa passare per legge un emendamento al Senato che non sarà sostenuto certo dalla maggioranza né da Palazzo Chigi. Non accetteremo mai la riapertura dei termini per il condono fiscale per quello tombale, ha spiegato a sua volta il sottosegretario all'economia Casero. Tra i tanti emendamenti presentati alla manovra, tuttavia, le sorprese continuano ad essere molte: la cedolare secca per gli affitti, l'emersione dei falsi invalidi, la proroga della Tremonti Ter, la tassazione della prostituzione. Volevo ancora soffermarmi sulla manovra inglese di cui abbiamo sentito il servizio nella prima parte del programma, perché credo sia giusto dare qualche elemento in più per capire bene le ragioni di questa manovra monstra da 40 miliardi che vale il 2,6% del PIL e tra l'altro presenta tutto il campionario della gogna fiscale, perché c'è l'aumento dell'IVA dal 17,5% al 20%, c'è il blocco dei salari pubblici per 2 anni e anche dell'appannaggio alla regina, quindi si tocca veramente un tasto sacro, importante per gli inglesi, e poi ci sono pesantissime imposte sulle banche. Bene, perché tutto questo avviene in Inghilterra? Soprattutto per 2 motivi fondamentali. Da un lato perché c'è un forte indebitamento pubblico, naturalmente come tutti sappiamo, che però si abbina anche ad un catastrofico indebitamento privato, e questo per fortuna per noi italiani non ci riguarda, anzi noi che siamo un popolo di formichine, di risparmiatori, sicuramente non abbiamo questo problema, anzi siamo i migliori da questo punto di vista in Europa. Poi l'altro fattore grave che pesa sugli inglesi è che l'economia britannica in questi anni ha puntato tutto o quasi sulla finanza, a volte troppo creativa e poco solida, e bisogna ricordarlo, dare la spinta in questo senso fu Blair alla fine degli anni 90, quindi insomma la crisi economica di questi anni ha colpito le banche inglesi, la City di Londra, molto più che dalle nostre parti. Poi su questa manovra aleggia il grande dilemma che hanno un po' tutti gli economisti, e cioè se appunto questa manovra, così all'insegna del rigore, tra l'altro su questo percorso si è già avviata la Germania prima della Gran Bretagna, ebbene, se questa manovra così rigorista, che permette sicuramente di ripianare il deficit in pochi anni, non abbia anche una controindicazione, ovvero quella di soffocare fortemente la ripresa economica, che è piuttosto balbettante in questo periodo di crisi. Il dibattito naturalmente è aperto, sicuramente terrà banco alla G20 che è in corso in queste ore in Canada. Io personalmente però sposo la tesi che è apparsa sul Sole 24 Ore giovedì e presentata dall'economista Alberto Alesina, che sostiene che Italia ha la spesa pubblica in un periodo che è comunque di crescita come quello attuale, anche se molto lieve, molto timida, non provocano necessariamente recessione, anzi possono avere degli effetti positivi soprattutto sul medio e lungo termine. Certo, bisogna ricordare che in Gran Bretagna comunque tutti gli analisti prevedono inizialmente una controindicazione gravissima per le misure di Cameron e del suo governo, ovvero produrranno una grave disoccupazione, si calcola addirittura 1 milione di posti di lavoro in meno. In fondo fu così anche nel periodo tra il 79 e l'81, quando la Thatcher partì con la sua rivoluzione, che piace o meno naturalmente, poi però ci furono la ripresa, la vittoria nella guerra delle Falkland, eccetera, eccetera, ma insomma sulla Thatcher potremmo fare un'intera puntata e non è proprio il caso. Veniamo invece all'Italia, alla discussione invece sulla nostra manovra. In questo momento direi che il dibattito più importante e anche più aspro è tra governo e regioni. Sentiamo Vincenzo Miglietta ieri mattina. È un vero e proprio braccio di ferro quello in corso tra governo e regioni. Di fronte al no di Tremonti a modifiche della manovra, i governatori hanno annunciato infatti di essere pronti a restituire allo Stato importanti competenze. Valgono oltre 3 miliardi di euro, mentre il taglio previsto dal Tesoro è di circa 4 miliardi, spiega il presidente della Conferenza delle Regioni, Errani. Trasporto pubblico locale, ambiente, servizi, fondo per le imprese. Visto che siamo nelle condizioni con questi tagli di non poter gestire queste competenze. A questo punto, dice ancora Errani, chiederemo un incontro al presidente del Consiglio Berlusconi e ai presidenti di Camera e Senato, poi informeremo il capo dello Stato. Le cose che dobbiamo fare, ribatte il ministro Tremonti, non sono scelte politiche ma per il vincolo del bene comune. Noi dobbiamo ridurre la spesa pubblica. Abbiamo visto cosa è successo all'Irlanda, alla Grecia e alla Spagna. Vorremmo evitare che succeda lo stesso all'Italia. Per fine mese vareremo il provvedimento sulla libertà di impresa, conferma intanto il premier Berlusconi. Sulla manovra interviene infine anche la Corte dei Conti. Bene i tagli agli sprechi, dicono i magistrati contabili, che però avvertono il decreto potrebbe incidere negativamente sulla crescita. Sarebbe davvero clamoroso, una specie di federalismo al contrario, se le regioni restituissero le proprie deleghe al governo, deleghe che vennero concesse a suo tempo dal ministro Bassanini, che sono deleghe naturalmente fondamentali, cruciali, perché si parla di trasporto pubblico, polizia amministrativa, demanio idrico e naturalmente la sanità. Restiamo ancora a parlare di economia, perché la manovra che si sta discutendo in questo periodo sicuramente deve tener conto dell'andamento poi complessivo dell'economia italiana, delle stime e delle previsioni. Giovedì si è pronunciata Confindustria, un anno fa il centro studi di Confindustria parlò di germogli di ripresa, quest'anno fortunatamente ha fatto una fotografia con colori, diciamo così, un po' più vivaci. Sentiamo il servizio da Roma di Chiara Di Michele. L'economia italiana è fuori dalla recessione e crescerà più del previsto. Nel 2010 il PIL segnerà un più 1,2% che salirà a più 1,6% nel 2011, malgrado l'impatto restrittivo della manovra economica nei prossimi due anni. Il centro studi di Confindustria ha rivisto così al rialzo le stime sulla crescita. Rimane però l'allarme disoccupazione che continuerà a crescere dopo una perdita di oltre 500.000 posti di lavoro negli ultimi due anni. Così il leader degli industriali Emma Marcegaglia. Siamo a un 8,9% di tasso di disoccupazione, noi prevediamo che continui a peggiorare ancora per qualche mese fino alla prima parte 2011. Ci vorrà tempo, soprattutto con un livello di crescita così basso, per riassorbire il tasso di disoccupazione. Altro capitolo, il fisco. L'evasione sfiora i 125 miliardi di euro secondo Confindustria, che chiede un recupero vero dell'evasione fiscale a vantaggio di chi paga le tasse, il che significherebbe un abbassamento di 16% delle aliquote, un guadagno di retribuzione netta di 1.200 euro, una diminuzione del costo del lavoro di 1.600 euro, una pressione fiscale reale che va al 43%, non al 52% come è oggi. La settimana in Parlamento non ha offerto soltanto le discussioni sulla manovra, ha riproposto anche una serie di chiacchiere da bar sulla nazionale, la Lega contro tutti, tutti contro la Lega, poi insomma alla fine il campo ha smentito tutti, Bossi compreso, ma ne parleremo tra pochissimo. E poi abbiamo visto l'eterna nuova puntata sul DDL intercettazioni, che a questo punto dovrebbe arrivare in aula alla Camera a fine luglio. E infine c'è stata anche la vicenda di Aldo Brancher, nuovo ministro, non si sa bene ancora con quali poteri e con quali incarichi. Di sicuro però il suo primo intervento da ministro non è certo dei più memorabili, anzi ha scatenato un mare di polemiche. Sentiamo Stefano Totoro dalla GR delle 7 di ieri. Non sarà il primo atto del suo ministero, ma il primo da ministro sicuramente sì. Fresco di nomina da titolare del Dicastero per l'attuazione del federalismo, Aldo Brancher si avvale della sua nuova posizione per aggrapparsi ad un privilegio, quello del legittimo impedimento. Domani si sarebbe dovuto presentare in un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano come imputato insieme alla moglie nel processo per il tentativo di scalata d'Anton Veneta da parte di BP. Lui accusato di appropriazione indebita, lei di ricettazione. Invece, quella norma approvata dal governo Berlusconi, che congela i processi per 180 giorni per le più alte cariche dello Stato e per i ministri, permette a Brancher di prendersi più tempo e organizzare il suo ministero. Questa è la motivazione. Questioni di priorità che scatenano le furie dell'opposizione. Il legittimo impedimento aveva comunque già fatto il suo ingresso in tribunale quando era stato Silvio Berlusconi a beneficiarne. In due casi i giudici avevano sollevato la questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ieri si è aggiunto un terzo caso, quando il giudice per l'udienza preliminare di Milano, Marina Zelante, ha inviato ancora una volta gli atti alla Corte Costituzionale. Processo Mediatrade questa volta, con il capo del governo imputato, accusato di frode fiscale e appropriazione indebita. Processi congelati in attesa di chiarimenti da parte della Consulta. Brancher si è difeso, naturalmente il suo diritto, ha ricordato che in questo paese si maledice sempre il prossimo, l'ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Io non sono un giustizialista, però insomma condivido le parole utilizzate sempre sul Corriere di ieri da Pierluigi Battista, che non è certo un forcaiolo, che ha detto: quello di Brancher non è stato uno spettacolo politico brillante e avvincente, anzi sembra un regalo all'opposizione, una conferma dei peggiori sospetti. Adesso invece andiamo a seguire gli ultimi giorni di Obama, del presidente americano, perché ci sono naturalmente le questioni economiche che tengono banco e che lo vedono sicuramente in prima linea in Canada, dove insomma si deve districare tra G8 e G20, come peraltro tutti i grandi potenti della terra. Poi però ci sono due fardelli che incombono sulle sue spalle. Uno si chiama Afghanistan e l'altro BP, ovvero British Petroleum, la tristissima colpevole del disastro ecologico di cui non conosciamo ancora le dimensioni nel Golfo del Messico. A proposito, a privatizzare la BP tanti anni fa fu la Thatcher, che abbiamo già evocato in questa nostra puntata. Ebbene, sull'Afghanistan Obama è stato costretto in questi giorni, esattamente mercoledì, a cambiare il generale delle truppe americane McChrystal. Invece per la BP continuano i guai e di riflesso anche quelli di Obama, che proprio a causa della compagnia petrolifera vede logorarsi giorno in giorno buona parte del suo consenso con gli americani. Sentiamo su queste due questioni clamorose, gigantesche, prima Valentina Forlanetto e poi Ludovica Scaletti. Illeso in campo, il generale Stanley McChrystal è caduto su un'intervista. Il comandante delle forze americane in Afghanistan è stato sostituito ieri dal presidente Barack Obama con il generale David Petraeus. Questo dopo aver rilasciato un'intervista al giornale Rolling Stones, in cui non risparmiava critiche e battute al presidente stesso e all'amministrazione. Petraeus, attualmente comandante del CENTCOM, il comando centrale di Tampa in Florida, responsabile per l'Iraq e l'Afghanistan, ha lavorato in Iraq alla fine della presidenza Bush. Today I accepted General Stanley McChrystal's resignation as commander of the International Security Assistance Force. Nel motivare la sua decisione, il presidente Obama ha detto che accetta il dibattito all'interno del suo team, ma non le divisioni, e che l'unità è necessaria per vincere la guerra. But war is bigger than any one man. La rimozione è la cosa giusta per la sicurezza nazionale, ha aggiunto, precisando che l'avvicendamento rappresenta un cambio di personalità ma non modifica la politica nel paese medio orientale. Un esordio difficile per il neo responsabile di BP America, Bob Dudley, che ha da poco sostituito il discusso Tony Hayward. Ieri pomeriggio uno dei robot subacquei impegnati nelle operazioni di recupero del petrolio si è scontrato con le tubature che trasportano acqua calda all'interno della cupola. I tecnici della BP hanno dovuto rimuovere il tappo per evitare che si formasse del ghiaccio al suo interno e il greggio ha ripreso a sgorgare copiosamente. L'ammiraglio Allen, a capo delle operazioni, ha fatto sapere che la copertura verrà riposizionata al più presto. Il tappo era stato installato il 3 giugno e finora ha permesso di recuperare più di 16.000 barili di greggio al giorno. Allen ha anche annunciato la morte di due responsabili delle operazioni di pulizia delle coste. Uno dei due sarebbe annegato in una piscina, mentre l'altro, un capitano di una barca, si è tolto la vita. Era un pescatore e aveva perso il lavoro a causa del petrolio. Era disperato, ha detto il suo medico legale. Intanto, dopo il no della Corte federale alla sospensione per 6 mesi delle trivellazioni nel Golfo, la Casa Bianca ha annunciato che presto sarà varata una nuova moratoria. Il tempo è decisamente volato, siamo un po' in ritardo, quindi non ho il tempo di mandare quello che avrei voluto invece mandare. C'è un servizio sui mondiali di calcio, che insomma vogliamo lasciare il nostro segno su questa disfatta italiana in Sudafrica. Comunque alla fine credo insomma che ormai molti fiumi di parole e inchiostro siano stati già versati e si continuano, perché il processo all'Italia di Lippi è appena cominciato, si continuano a versare. Devo dire insomma che alla fine abbiamo fatto una figura umiliante come la Francia, quindi alla fine le due finaliste dell'ultima edizione dei mondiali del 2006 sono entrambe a casa fuori al primo turno senza neanche una vittoria in due. Credo che sia un record negativo clamoroso. Do solo il mio modesto contributo alla discussione sull'Italia. A me sembra che in tutta questa spedizione sia mancata freschezza, direi, nell'animo, nelle gambe, nella testa, e credo che Prandelli, il nuovo commissario tecnico, abbia una discreta zavorra di questa freschezza che serve al gruppo azzurro. Di Pomigliano e della Fiat abbiamo parlato già la settimana scorsa con il collega del Sole 24 Ore Andrea Malan, che ci ha anticipato i possibili scenari industriali, insomma all'indomani di quello che sarebbe stato il referendum tra i lavoratori dello stabilimento. Il referendum c'è stato, si è svolto martedì, e dunque mi piace in questa puntata dell'ottavo giorno tornare su quello che è tra virgolette il luogo del delitto e soprattutto con chi in quei giorni c'è stato lì a contatto con i lavoratori elettori, ovvero l'inviato del Sole 24 Ore, Mariano Maugeri. Buongiorno Mariano. Buongiorno a voi. Allora, con te vorrei sviscerare soprattutto l'aspetto umano, uso un parolone, insomma, sociologico di questo voto. Prima però ti devo fare una domanda preliminare, che non è certo secondaria, per la quale ti chiedo una risposta proprio breve e chiara. Questo referendum per te è stato legittimo, oppure i dubbi messi in campo dalla FIOM, cioè che non si può chiedere a un operaio di votare praticamente spalle al muro, o voti sì oppure ti butti dalla finestra, avevano una ragione? No, secondo me è legittimo alla luce della situazione dello stabilimento di Pomigliano, della storia dello stabilimento di Pomigliano, che come sappiamo tutti è una storia molto tormentata. Basti pensare che questa fabbrica reduce da 21 mesi di cassa integrazione e che sta producendo due modelli, la 147 e la 159 Alfa Romeo, uno fuori mercato, la 147, l'altro rivisitato che sarà spostato probabilmente negli Stati Uniti. Quindi in questo momento la Fiat di Pomigliano non ha nessuna mission e non ha nessun modello da produrre. La nuova Panda, che è segmento B, lo sappiamo tutti, è una vettura strategica per il futuro della Fiat. La condizione e la situazione della Fiat la conosciamo altrettanto bene, cioè è riemersa da una situazione prefallimentare solo qualche anno fa dopo la cura Marchionne. Quindi alla luce di tutti questi fatti penso che il referendum fosse legittimo. E comunque mi sembra chiaro che rimanendo lo status quo, cioè con le due Alfa prodotte, Pomigliano in un modo o nell'altro, sarebbe arrivato praticamente a morte certa, a chiusura abbastanza rapida. Mariano, tra poco approfondiamo ancora il discorso. Prima ascoltiamo allora la cronaca proprio immediatamente successiva al voto di martedì con il corrispondente di Radio 24 da Pomigliano, Paolo Piccone. Erano le 4 stamattina quando finalmente, dopo quasi 7 ore, è stato concluso lo spoglio delle schede del referendum dei lavoratori dello stabilimento Fiat di Pomigliano. Alla fine il numero dei sì all'accordo sul nuovo piano produttivo per la fabbrica campana hanno prevalso, ma non sono stati quelli sperati alla vigilia dei sindacati. Infatti i sì complessivamente hanno raccolto 2.888 voti per una percentuale del 62%, i no sono stati invece 1.673 con una percentuale del 36%, 59 le schede bianche e 22 le nulle. L'affluenza al voto è stata massiccia, hanno votato infatti ben 4.642 lavoratori su 4.881 aventi diritto. Per chi sperava in una vittoria schiacciante del sì, il risultato è per certi versi insoddisfacente. Oltre a non soddisfare infatti i sindacati firmatari dell'accordo separato, ovvero FIM, WILM, FISMICE e UGL, sarebbe anche al di sotto della soglia ritenuta dal Lingotto indispensabile per poter procedere alla conferma dell'investimento di 700 milioni di euro per portare in campagna la produzione della nuova Panda. Potrebbe dunque pregiudicare seriamente il futuro di questo stabilimento e aprire nuovi scenari convincendo Lingotto ad attuare il piano B, ovvero rivolgersi nuovamente al proprio sito in Polonia. Naturalmente la situazione è fluida per certi versi, molto complicata, complessa, si aspettano le mosse un po' da tutti gli attori in causa, la Fiat, i sindacati, naturalmente anche il governo, anche Sacconi comunque ha parlato in questi giorni. Io vorrei tornare con Mariano Maugeri a quella umana, quella varia umanità che hai incontrato in questi giorni in cui sei stato a Pomigliano. Mi ha colpito molto il fatto che tu di fatto ti sei trovato di fronte a due generazioni, i quarantenni da un lato, cioè quelli assunti a Pomigliano ormai 20 anni fa quando era ancora uno stabilimento dell'Alfa, che erano tutti un po' più propensi a votare sì a questo referendum, e invece i più giovani, quelli al di sotto dei 30 anni, per così dire più duri e puri, più vicino alle posizioni della FIAM, quindi più propensi a votare no. Io Mariano non voglio fare l'avvocato del diavolo, però insomma con tutta la buona volontà, ammettendo pure che la Fiat pretende vincoli anche piuttosto rigidi su alcuni elementi come la malattia e lo sciopero, però se io fossi stato lì, operaio, lavoratore a Pomigliano, francamente non avrei votato no e non avrei trovato una ragione per votare no. Tu magari lì forse hai capito meglio la situazione. Sì, sai, per capire la situazione lì bisognerebbe vivere a Pomigliano, aver vissuto a Pomigliano o come dire nei dintorni, quindi diciamo in questa immensa periferia degradata che appunto è la provincia di Napoli, 3 milioni di abitanti, una densità superiore a quella di Hong Kong e Macao, in condizioni economiche e sociali che conosciamo tutti, con una forte influenza della camorra su quella realtà e con una classe dirigente napoletana che non ha dato prove di ottimo governo, basti citare appunto gli ultimi 15 anni di esperienza del governo Bassolino, prima al Comune di Napoli e poi in Regione. Quindi sostanzialmente mancano dei modelli, mancano degli esempi di riferimento. È una società, una realtà frantumata ed economicamente ormai spacciata. Cioè bisognerebbe fare forse un ragionamento a te sulla trend economico del Mezzogiorno d'Italia alla luce della crisi globale, ed è un trend disastroso, drammatico, cioè io non so come si metteranno le cose da qui a 10 anni, sicuramente non ci potrà essere un'inversione di tendenza senza interventi strutturali e francamente nella politica economica italiana non mi pare che si vedano appunto interventi in questa direzione, né mi pare che ci siano risorse sufficienti per una cura da cavallo nel Mezzogiorno. Ma quindi stando queste cose hai arricchito il quadro con dei dettagli insomma tragici per Napoli, per il Sud. Il sì era l'unica strada possibile a questo referendum? Purtroppo sì, anche se il sì, il consenso al piano Marchionne è stato un sì tormentato. Più di un operaio uscendo dalla cabina elettorale ha detto: ho votato sì, ma adesso mi sputerei in faccia. Così è stato per il no, anche il no è stato tormentato, non c'è stato un voto convinto, non poteva esserci, se sono vere le premesse di cui abbiamo parlato un attimo fa. C'è una situazione talmente complicata e disperata per cui rinunciare ad alcuni aspetti del contratto nazionale di lavoro, e forse anche lì questo aspetto meriterebbe una digressione, perché il contratto nazionale di lavoro, per quanto importante e per quanto vada tutelato, non è un tabù. Noi ancora discutiamo di regole che sono state sostanzialmente fissate negli anni 70 con appunto lo statuto dei lavoratori e poi i contratti nazionali che si sono succeduti via via con delle modifiche importanti negli anni magari 80 e 90, ma poi sono rimasti quelli. Forse la situazione del paese, la differenza ormai è tragica tra nord e sud e la situazione economica mondiale dovrebbero spingere non solo la Fiat e i sindacati, ma soprattutto il governo a rielaborare, a rivedere delle regole che mostrano la corda, e la mostrano ormai da una decina di anni. Cioè, questo potrebbe essere il momento per una messa in discussione di un apparato normativo che non è più al passo con i tempi. Ecco, molto interessante questo riferimento allo studio dei lavoratori. Naturalmente credo che anche il sindacato debba ammodernare le sue strutture e le sue formule. Questo naturalmente mi permette anche di ricordare che ieri è stato giorno di sciopero generale, racconto la manovra, ma naturalmente soprattutto nei paraggi di Napoli, di Pomigliano, si è parlato molto anche di Fiat e del futuro dello stabilimento. Io, Mariano, vorrei un tuo commento su una cosa che ho letto, scritta da Furio Colombo sul Fatto di qualche giorno fa. Colombo naturalmente l'ho letto in quanto vecchia gloria, insomma, una vecchia militanza in Fiat, anche se naturalmente parliamo veramente di un'epoca lontana rispetto ad oggi. Ebbene, Colombo, di cui mi aspettavo invece un sostegno aperto a Marchionne e la sua strategia su Pomigliano, ma anche più in generale sul futuro della Fiat, ha scritto che sta commettendo un errore, cioè quello di favorire la spaccatura del sindacato, e invece ha scomodato invece paragoni col passato. Ha ricordato Gianni Agnelli, che cercava sempre invece il dialogo con Luciano Lama, o addirittura Adriano Olivetti, con nessuno sciopero nella sua azienda, è sempre protagonista di una mediazione con il sindacato. Tu come giudichi queste parole di Furio Colombo? Ma io non le giudico, io osservo semplicemente che il sindacato è diviso, la CGIL con la FIOM, c'è una divisione ormai storica, e da una parte, poi la CGIL con i socialisti dall'altra, che molti dei quali tra l'altro sono adesso al governo. Cioè è come se ci fosse un regolamento dei conti che va al di là delle fratture all'interno del sindacato e che però finisce per consolidare queste fratture. Cioè è una storia antica. Colombo giustamente si riferisce ad un'epoca molto lontana in cui a capo della CGIL c'era Luciano Lama e dopo Luciano Lama c'è stato un uomo come Bruno Trentin, quindi personaggi carismatici di grande intelligenza, capaci di trascinare e di motivare i lavoratori. La realtà che stiamo vivendo mi pare di segno assolutamente opposto, quindi il riferimento è giusto, perché è corretto storicizzare, però veramente non può aiutarci a risolvere il dilemma che ci siamo trovati di fronte in queste settimane a Pomigliano d'Arco, anzi direi in questi anni, perché sono andato a Pomigliano d'Arco anche un anno e mezzo fa, poco dopo questo grande progetto di formazione che fece Marchionne. Non so se vi ricordate, nel 2008 Marchionne chiuse la fabbrica per 2 mesi e mandò tutti gli operai a scuola. Chi erano gli insegnanti? Vabbè, anche i giapponesi del toyotismo, quindi si cercava di sperimentare un nuovo modello produttivo, ma gli insegnanti formatori erano anche Fratelli Abbagnale, il navigatore solitario Soldini, Velasco, l'ex capo leader della Nazionale Italiana di Pallavolo. Quindi Marchionne su questo investì 100 milioni di euro, cifre non così ridicole, per cercare di cambiare la mentalità, ma non rieducare, per cercare di motivare degli operai che ovviamente avevano perso ogni motivazione, perché una cassa integrazione così lunga è antipedagogica. E lì forse potremmo fare anche una riflessione sui giovani. Se io sono un ragazzo di 25 anni, vivo in casa con i miei genitori non ho famiglia, sono sufficientemente libero da grosse responsabilità e ricevo 800 euro al mese sostanzialmente per non fare nulla, per starmene a casa, beh, io posso anche vivere alla giornata e dire finché va così poi ci penserà qualcun altro. Mariano, noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Devo ammettere che dopo questa nostra conversazione me ne vado con più dubbi che certezze. Credo che sia il merito anche delle cose non banali che ci siamo detti. Ti ringrazio, naturalmente. Io spero di ritrovarti presto per approfondire ancora la questione. Senz'altro, presto. Buon grazie, lavoro. Grazie a Mariano Maugeri. Adesso... Per questi ultimi minuti insieme con l'Ottavo Giorno ritrovo un amico del programma, ovvero Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Buongiorno Carlo. Buongiorno a voi. Allora Carlo, io naturalmente non lo faccio apposta, però è un po' la dura legge del nostro mestiere. Insomma, noi ci risentiamo, ci ritroviamo quasi ciclicamente, puntualmente qui all'Ottavo Giorno quando c'è un problema che divampa dentro o attorno alla Chiesa. Insomma, c'è già lo scandalo pedofilia che basterebbe per chissà quanti anni, poi ci sono gli ultimi sviluppi dal Belgio, per certi versi inquietanti, e comunque voglio ribadire la linea ferma, la mano ferma di Ratzinger su questa terribile e controversa vicenda, però ecco che c'è una nuova grana per il Vaticano, per la Curia Romana, ovvero l'inchiesta sui grandi appalti cominciata sull'assi Anemone Balducci e adesso come una piovra sta un po' allargando i suoi tentacoli ed è arrivata anche all'interno della Chiesa coinvolgendo il Cardinal Sepe. In una battuta poi ascoltiamo subito un servizio. Tu Carlo, quando hai visto gli sviluppi che hanno colpito Sepe, sei saltato sulla sedia, che hai fatto? Beh, insomma, diciamo che colpiscono un personaggio di primo piano della Chiesa, anche se la gestione, possiamo chiamarla così, Ratzinger lo aveva messo da parte, l'aveva spostato a Napoli, che è pure una importante diocesi, ma è poco rispetto all'incarico che aveva precedentemente, quindi colpisce un cardinale di prima grandezza e inizialmente la Chiesa era stata molto prudente, nel senso non si era spesa più di tanto nel difenderlo, poi con la frase la responsabilità penale è personale, significa insomma poi alla fine sono affari suoi, però poi alla fine sono scesi in campo difendendolo, perché lo stesso Sepe ha fatto capire abbastanza chiaramente che potrebbe parlare. Questo potrebbe essere forse un problema, stai suggerendo questa lettura, insomma, torniamo un po' agli intrighi dentro il Vaticano, insomma, però non vogliamo troppo di fantasia, restiamo con i piedi ben piantati. La fantasia spesso supera la realtà, cioè insomma, al contrario, scusa, la realtà supera la fantasia. Allora, restiamo allora con i piedi ben piantati per terra, riascoltiamo un servizio davvero molto esauriente che fa un po' il punto della situazione lunedì mattina, firmato da Raffaella Calandra. La lista del Vaticano dopo quella anemone, l'inchiesta di Perugia entra nei palazzi della Santa Sede, quelli messi in vendita e quelli da ristrutturare con fondi pubblici. Sono i contratti del 2005 ad aver fatto fare un nuovo salto di qualità all'indagine, con l'accusa di corruzione mossa al cardinale Crescenzio Sepe e all'ex ministro Pietro Lunardi. In quell'anno furono oltre 2000 gli immobili ceduti dall'ex propaganda fide, il più ricco di Castero d'Oltretevere, allora guidato dal prelato campano. Ed è questa l'ultima lista dell'inchiesta sulla cricca, una lista in cui compare anche la casa comprata a prezzo di favore, secondo l'accusa, da Lunardi, l'allora ministro che poi firmò un finanziamento per il restauro di un museo d'Oltretevere, come confermato dai contratti sequestrati al Ministero delle Infrastrutture. Insomma, è il sospetto dei PM un nuovo scambio di appalti e favori, e gli inquirenti vogliono andare a vedere se altri casi si nascondano in quell'elenco, all'interno del quale c'è pure la casa di Via Giulia usata da Guido Bertolaso. I rapporti tra il capo della Protezione Civile e il cardinale Sepe risalgono fino alla gestione del Giubileo nel 2000. Anche allora a collaborare a quest'altro grande evento c'era il provveditore Angelo Balducci. E insomma, questo servizio di Raffaella Calandra un po' hanno dato fili che si allungano nel tempo, risalgono addirittura al Giubileo del 2000, quindi praticamente a 10 anni fa. Io non amo una certa demagogia che definisco anticlericale e antivaticana, che inneggia alla Chiesa povera tra i poveri, e su questo ho apprezzato invece quello che ha scritto Il Foglio. D'altronde è nota la sintonia tra Giuliano Ferrara e questo Papa da molto tempo, che ha detto: al mondo laico e disincantato conviene una Chiesa ricca in grado di difendere la sua libertà e quella degli altri nel mondo secolare. Però insomma, ormai Carlo, bisogna dire che Propaganda Fide, che ha una storia lunghissima, insomma oltre 400 anni, ha fatto tante cose, ormai è quasi identificato come un'agenzia immobiliare del Vaticano, insomma con sospetti, battute anche in sottofondo. A Radio 24 ho sentito anche un radicale parlare addirittura di simonia moderna in questo caso. Insomma, che vogliamo dire di queste cose? Vogliamo dire che in queste situazioni di grave crisi l'incertezza, lo stallo è la cosa peggiore che può capitare, quindi forse è arrivato il momento di un cambio di passo fortissimo, come è accaduto in altre occasioni di recente. I legionari di Cristo sono stati commissariati brutalmente dopo anni di inchieste, ma sono, cioè, una decisione forte ci vuole, non è responsabilità di questo attuale capo, che è un indiano, anche molto per bene si dice, ma insomma, però ci vogliono dei cambi di passo. Il Papa sta facendo per esempio delle nomine ora in Vaticano in questo momento, e nello stallo che c'era stato su alcune nomine chiave, come per esempio il capo del Dicastero dei Vescovi, c'erano state delle lotte, a un certo punto lui è intervenuto, come ha rivelato il vaticanista del giornale Andrea Tornielli, ricordo che insomma questa cosa è stata uno scoop di qualche giorno fa, ha nominato un suo amico, uno di cui si fida ciecamente, e ha detto basta lotte, metto, è un cardinale canadese, è capo del Dicastero dei Vescovi. Cioè, il Papa in questo momento sta cercando di riportare anche proprio nella sua diretta responsabilità, si chiama proprio l'appartamento, cioè il luogo dove lui decide, per sbloccare delle impasse. Questo deve accadere anche per Propaganda Fide, che è una istituzione che si occupa di circa 1000 diocesi nel mondo, soprattutto in Africa, in Asia, si occupa dei poveri, si occupa veramente, perché poi manda i soldi ai francescani invece che ai gesuiti, che aprono missioni nei posti sperduti del mondo, però poi a Roma purtroppo è capitato che alcuni di loro scimmiottavano la politica, mettevano le persone nei posti, si assegnavano le case vicendevolmente, perché sono anche a vicenda queste cose, alcuni preti se le autoassegnano, queste cose non dovrebbero accadere, non perché la Chiesa sia povera, ma perché la Chiesa sia, come dire, un esempio di moralità. Questo è quello che ci aspettiamo. Senti, ma chi dice non potevano darle ai poveri queste case invece che a persone di un certo lignaggio, sia politico che sociale? Tu che cosa rispondi? Questa, qualcuno ha già dato una difesa. Una così, è come dire che i calciatori guadagnano tanto e quindi dovrebbero vincere. Detta così, sono cose battute da bar, ma neanche da sottoscala. Una palazzina nel centro di Roma, se è di proprietà della Chiesa, è giusto che sia messa a reddito e sia affittata a prezzi di mercato, anche di più alti del mercato, non però che sia venduta la metà del suo valore perché deve essere ristrutturata. Questa è una cosa che oggettivamente fa, non, anche se appartiene a un ente, a uno Stato straniero, perché in questo caso è la Santa Sede che ha venduto, quindi stiamo parlando quindi di un bene che non è neanche italiano, lo diventa se diventa oggetto di scambio, come dice l'inchiesta. Però darle poveri di per sé non ha senso, è giusto che sia messa a reddito per far sì che i soldi arrivino alle missioni, oppure a associazioni che anche nella periferia di Roma, invece di andare in Africa, poi assistono gli immigrati o i poveri italiani. Questo è giusto, cioè, voglio dire, non è necessario fare della semplice demagogia, però allo stesso tempo ci vuole un rigore assoluto, anzi nella Chiesa vale come la voglia di Cesare, deve essere al di sopra di ogni sospetto, anche più degli altri, secondo me. Senti Carlo, in pochi secondi ti chiedo un commento su una cosa che a me ha colpito molto, che non credo sia casuale, perché domenica, quindi praticamente una settimana fa, mentre il cardinale Seppe si consegnava anche all'affetto dei suoi fedeli a Napoli e dimostrava una calma olimpica, oserei dire cardinalizia, insomma nelle stesse ore Ratzinger è stato molto chiaro, ha usato parole molto, molto inequivocabili, insomma ha detto il sacerdozio non può mai rappresentare un modo per raggiungere la sicurezza nella vita o per conquistarsi una posizione sociale. Quindi Ratzinger è sceso in campo in maniera molto, molto netta, insomma, pur nella diplomazia vaticana. Guarda Emiliano, sarà la 30ª volta che Ratzinger dice una frase di questo tipo, e sempre ogni volta con un decibel superiore. Il carrierismo della Chiesa è diciamo così, uno degli elementi chiave del suo pontificato, inteso come linea politica, non come linea teologica. Dice basta il carrierismo, stronchiamo il carrierismo e la sporcizia. Le due cose evidentemente ormai vanno in braccetto. Grazie a Carlo Marroni, io sono grazie sempre più convinto che Ratzinger sarà un grandissimo papa postumo, nel senso che i suoi meriti probabilmente li apprezzeremo tra diversi decenni, insomma, quando non ci sarà più. Nel frattempo, insomma, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, nella quale vi ho risparmiato le notizie sul maltempo o sugli esami di maturità cominciati questa settimana, non perché non siano cose naturalmente importanti, non perché io non sia solidale poi con tutti gli studenti, insomma, in giro per l'Italia, sono in trincea con loro per questo momento comunque importante, però insomma si tratta di quelle notizie che considero un po' stereotipate, quasi d'obbligo in certi periodi dell'anno, come, che ne so, il menù del cenone di Natale o le città deserte a Ferragosto, insomma, di cui francamente possiamo fare anche a meno, insomma, non sento certo la necessità, e evidenzio una certa monotonia, un certo rilassamento un po' della professione di giornalisti. Siamo arrivati alla fine allora di questa puntata, ottavo giorno a radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, come sempre, dopo le 9, mentre siamo tutta la settimana su podcast sul nostro sito www.radio24.it.